America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, il dilemma di Barack Obama in qualche modo si è sciolto. Il presidente americano ha raggiunto un accordo quantomeno parziale con il presidente Hosni Mubarak. Il presidente egiziano se ne andrà, non parteciperà alle nuove elezioni, ma non se ne andrà immediatamente. L'obiettivo è quello di organizzare un passaggio ordinato delle consegne, ma non soltanto delle consegne in termini di potere, ma di una nuova formulazione della Costituzione, della legge elettorale, un'organizzazione trasparente del processo democratico. Sentiamo il presidente americano. And going forward, I urge the military to continue its efforts to help ensure that this time of change is peaceful. Second, we stand for universal values, including the rights of the Egyptian people to freedom of assembly, freedom of speech, and the freedom to access information. In questo discorso, sostanzialmente, il presidente americano ha sottolineato quanto i militari siano stati moderati, quanto abbiano aiutato la situazione garantendo la sicurezza degli egiziani pur senza intervenire. Il presidente ha rivelato di aver parlato con Mubarak dopo il discorso di ieri sera, il discorso in cui, vi dicevo, Mubarak ha accettato che un cambiamento è necessario, e Obama ha sottolineato che tutti i politici servono secondo il volere del popolo e la voce del popolo, ha detto Barack Obama. Dice che questo è uno di quei momenti in cui è necessario il cambiamento, è necessaria una transizione ordinata e pacifica che deve cominciare ora. Ecco, questa è la frase chiave e il cuore del discorso. Perché è il cuore del discorso? Perché Obama di fatto si porta in avanti, cerca di guadagnare tempo, ma questo gli creerà difficoltà proprio con la piazza egiziana. Ci sono state polemiche ieri sera negli Stati Uniti. Ad esempio, David Gergen è contrario a quello che ha detto Barack Obama. Secondo lui il presidente non avrebbe dovuto parlare. David Gergen, ricordiamolo, è stato consigliere di almeno 4 presidenti americani, sia democratici che repubblicani. Obama ha detto doveva stare zitto. Non la pensa così invece Nicholas Byrne, che è stato il numero 2 del Dipartimento di Stato nell'amministrazione Bush. Sentiamolo. I do credit President Obama. I think he had to make the statement he made tonight. You know, John, President Obama is on a high wire trying to balance competing objectives. On the one hand, he had to send a signal, in my judgment, of American support for change, for freedom, hopefully for a democratic future of Egypt. He had to reassure the young people in all the Arab world. Byrne sostiene che il presidente ha mantenuto un equilibrio quasi perfetto, che doveva intervenire e che deve cercare di garantire la stabilità dell'Egitto e soprattutto la transizione ordinata. E dunque di questa evoluzione in Egitto, ai microfoni di America 24, parliamo con Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa dagli Stati Uniti. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Allora Maurizio, abbiamo ascoltato varie polemiche su questo intervento del presidente Obama. Qual è la tua posizione innanzitutto? Ha fatto bene secondo te a parlare o ha fatto male, come dice David Gergen? Obama ha incassato un successo importante con la decisione di Mubarak di non ricandidarsi e ha rilanciato subito, ponendo una nuova condizione a Mubarak di iniziare subito la transizione. Nel giro di 10 ore, quanto è avvenuto fra il Cairo e Washington profila un ruolo di mediatore di primo piano di Barack Obama, respingendo le critiche che fino a questo momento la Casa Bianca ha ricevuto. Elezioni fra quanto? Elezioni fra 8 mesi? È possibile tenere una piazza come quella che vediamo oggi in Egitto così per altri 8 mesi? Oppure bisogna muoversi molto più in fretta? Ma sicuramente nessuno ha la risposta alla domanda che tu fai. C'è però un dato che dobbiamo tenere presente, che il primo risultato ottenuto da Obama già fra venerdì e sabato è stato quando i militari, che costituiscono la spina dorsale dell'Egitto e sono l'istituzione più solida, più rappresentativa, più stimata, non considerata corrotta dalla popolazione, hanno fatto quello che Obama gli ha chiesto, cioè non sparare sulla gente. Il capo di Stato Maggiore egiziano, Enan, venerdì mattina era al Pentagono, prima di partire di corsa per il Cairo, ha incontrato i vertici militari americani, gli hanno chiesto non sparate sulla gente, non lo hanno fatto, e nel discorso di Obama che abbiamo ascoltato dal Gran Foyer, lui ha ringraziato, I commend, ha detto, ha ringraziato apertamente i militari per essersi comportato così. Questo significa che non solo il presidente americano sta condizionando le mosse di Mubarak, ma ha in mano anche molti assi nei rapporti con le forze armate. Ecco, io credo Maurizio, sì, che questa sia la posizione corretta. Devo dire, mi trovo schierato sulle posizioni più di Nicholas Byrne e d'accordo con quello che tu dici, perché la verità è che oggi noi non sappiamo davvero chi c'è dietro questa piazza egiziana. Il rischio gravissimo è che El Baradei, che emerge come una specie di mediatore, di grande pacificatore delle diverse coalizioni politiche, in realtà possa essere poi completamente esautorato dalla base islamica. Io ho visto, le avrei viste anche tu, delle immagini piuttosto preoccupanti sulla CNN di dimostranti che chiedevano di annullare il trattato di pace con Israele e riprendere la guerra per liberare i fratelli palestinesi. Sei d'accordo sul fatto che ci sia un rischio molto concreto in un passaggio troppo rapido dei poteri? Mohammed El Baradei ricorda la figura di Bani Sadr all'inizio della rivoluzione iraniana del 1979, un personaggio laico, moderato, ma politicamente molto debole. C'è il pericolo oggettivo, questo molti analisti americani vicini all'amministrazione lo dicono, che siano i fratelli musulmani a prendere l'iniziativa nel caso di un precipitare della crisi, e quindi starà adesso alla gestione della transizione chiesta da Obama a Mubarak tentare di disinnescare questo rischio. Il personaggio chiave è Omar Suleiman, lo zar dell'intelligence nominato vicepresidente, ed è ragionevole chiedersi, credo, in queste ore se la data delle elezioni presidenziali, al momento stabilita per settembre, non possa essere avvicinata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. La EMI, gloriosa casa discografica e passata di proprietà della Citigroup, la grande banca americana, grande un tempo, in realtà, come sappiamo, è stata molto colpita dalla crisi finanziaria. E dunque, visto che c'è stato questo passaggio di proprietà della EMI, vi faccio sentire Katy Perry con uno dei suoi più grandi successi, Firework. You don't have to feel like a wasted space. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.